ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Una volta che si furono seduti in soggiorno, le cose iniziarono ad andare meglio, molto meglio di quanto Martin si fosse aspettato. Ruth riusciva a facilitargli ogni cosa, e la grazia con la quale lo faceva rendeva il suo amore per lei ancora più folle di prima. Iniziarono parlando dei libri che lei gli aveva prestato, del libro di Swinburne, che lui amava, e di quello di Browning, che non capiva. Ruth conduceva la conversazione passando da un argomento all'altro, sempre riflettendo su come aiutarlo. Vi aveva pensato spesso dal loro primo incontro. Voleva aiutarlo. Quel ragazzo risvegliava in lei pietà e tenerezza come nessun altro aveva mai fatto prima. Una pietà che non nasceva tanto dall'umiltà di Martin, quanto dall'istinto materno di Ruth. Non poteva essere diversamente, perché l'uomo che risvegliava in lei quei sentimenti era così uomo da riempirla di timori virginali e da farle vibrare la mente e il cuore di pensieri e sentimenti inconsueti. Ruth avvertiva di nuovo il fascino del suo collo e adesso, al pensiero di appoggiarvi le mani, provava anche una sensazione di dolcezza. Pur sembrandole ancora un impulso lascivo, vi era un po' più abituata. Non pensava che un amore appena nato potesse manifestarsi così, e nemmeno pensava che il sentimento risvegliato in lei da Martin fosse amore. Credeva di interessarsi a lui perché era un tipo singolare, dotato di molte eccellenti potenzialità che risvegliavano il suo spirito filantropico. Ruth non sapeva di desiderare Martin, ma per lui era diverso. Lui sapeva di amarla e di desiderarla come non aveva mai desiderato niente nella sua vita. Aveva amato la poesia per la sua bellezza, ma da quando aveva incontrato Ruth, i cancelli che portavano al vasto campo della poesia d'amore si erano spalancati davanti a lui. Lei l'aveva reso capace di comprendere. C'era un verso che Martin, solo una settimana prima, non avrebbe considerato degno di un secondo pensiero. Il folle amante di Dio sta morendo per un bacio. Ma ora quel verso era sempre presente nella sua mente. Era magico ed era vero. E guardando Ruth, Martin seppe che sarebbe stato felice di morire per un bacio. Si sentì uno dei folli amanti di Dio. Non si sarebbe sentito così orgoglioso nemmeno se fosse stato nominato cavaliere. Ma finalmente conosceva il significato della vita e della propria nascita. Mentre Martin guardava e ascoltava Ruth, i suoi pensieri diventavano sempre più audaci. Ripensava al selvaggio piacere che gli aveva dato la pressione nella mano di lei nella sua all'ingresso e desiderò sentirla ancora. Sollevava spesso lo sguardo verso le labbra di lei e le desiderava intensamente. Ma non c'era nulla di volgare o terreno in quel desiderio. Guardare ogni movimento e gioco delle labbra di Ruth mentre articolavano le parole gli dava un piacere squisito. Non erano labbra ordinarie come quelle degli altri uomini e delle altre donne. La sostanza di cui erano fatte non era semplice argilla umana. Erano labbra di puro spirito, e il desiderio che provava per loro sembrava assolutamente diverso dal desiderio che aveva provato per le labbra di altre donne. Poteva baciare le labbra di Ruth, posare fisicamente le proprie labbra su quelle di lei, ma l'avrebbe fatto con il nobile e tremendo fervore con il quale si bacia il mantello di Dio. Martin non era consapevole della mutazione che era avvenuta in lui. Non si rendeva conto che la luce che brillava nei suoi occhi quando guardava Ruth era simile alla luce che brilla negli occhi di ogni uomo quando è preda del desiderio e dell'amore. Non si rendeva conto di quanto il suo sguardo fosse ardente e virile, di come la calda fiamma di quello sguardo potesse influenzare l'alchimia dello spirito di Ruth. La penetrante virginità della ragazza esaltava e confondeva le emozioni di Martin, elevava i suoi pensieri a una castità fredda, come le stelle. Sarebbe rimasto stupito di sapere che tutto questo gli brillava negli occhi, attraversando Ruth come un'onda calda che faceva nascere anche in lei quel calore. Lei era sottilmente turbata e più di una volta, senza che sapesse perché, quella deliziosa intrusione le fece perdere il filo dei pensieri. Dopotutto, lei era molto sensibile e non era strano che l'aura di questo viaggiatore venuto da un altro mondo la colpisse. Sullo sfondo della propria coscienza, Ruth continuava a pensare a come poteva aiutare Martin, mentre cercava di indirizzare la conversazione in quella direzione. Ma fu lui ad affrontare per primo l'argomento. «Mi domandavo, forse può darmi un consiglio?» iniziò, ricevendo da Ruth una tacita disponibilità che gli fece sobbalzare il cuore. Lei ricorda che io, l'altra volta che sono stato qui, dicevo che non ero capace di parlare di libri e cose simili, perché non sapevo come, eh? Beh, ci ho pensato un bel po' da allora. Sono stato in biblioteca un sacco di volte, ma la maggior parte dei libri che ho preso non mi entrano proprio in testa. Forse dovevo iniziare dalle prime cose. Non ne ho mica avuto niente di buono. Io ho lavorato duramente che ero un bambino, e da quando sono stato in biblioteca e ho guardato quei libri con occhi nuovi, ho più o meno concluso che non ho letto i libri giusti. Sa, i libri che tu trovi negli accampamenti e nei punti di prua non sono mica quelli che ci sono in questa casa, per esempio. Beh, ecco, quello è il tipo di lettura a cui io sono abituato. Eppure, non è mica per vantarmi. Io mi sono sempre sentito diverso dalle compagnie dove ho pascolato. Non che sia meglio dei marinai e dei bovari che ho viaggiato insieme. Io ho fatto il mandriano per un po', sa, ma mi sono sempre piaciuti i libri. Io ho letto tutto quello che mi è capitato sotto e, ecco, io immagino di pensare diversamente dalla maggior parte di quelli. Ora, per arrivare a quello che miro, non sono mai entrato in una casa come questa. E quando ci sono venuto una settimana fa e ho visto tutte queste cose, e sua madre, e i suoi fratelli, e tutto questo, beh, insomma, mi è piaciuto. Avevo sentito parlare di queste cose. Le avevo lette in qualche libro, e quando ho visto la sua casa, ecco, i libri sono diventati veri. Ma quello che voglio dire è che mi è piaciuto, lo volevo, e lo voglio ora. Io voglio respirare un'aria come quella che c'è in questa casa, un'aria piena di libri, e quadri, e cose belle, dove le persone parlano a bassa voce, sono pulite, e i loro pensieri sono puliti. L'aria che ho sempre respirato è un miscuglio di sporcizia, stanze in affitto, rottami e bomba, e questa è l'unica cosa che si parla, ecco. Quando lei ha attraversato la stanza per dare un bacio a sua madre, ho pensato che era la cosa più bella che io avevo mai visto. E ho visto parecchio della vita, e non so come, ho visto parecchio di più anche di coloro che erano con me. Mi piace vedere le cose, e io voglio vederne di più. E di diverse. Ma non sono ancora arrivato al punto. Ecco, ma adesso ci sono, eh? Voglio avere anch'io la vita che lei fa in questa casa. Nella vita non c'è mica solo la bomba e il lavoro duro e l'andare in giro. Ma come posso fare per averla? Da che parte io devo iniziare? Sono pronto a scavarmi il mio sentiero, sai? E io... quando mi metto a lavorare duro, oh, faccio schiattare tutti gli altri. Una volta che inizio, lavoro giorno e notte. Forse pensa che è ridicolo che io le chieda questo. So che lei è l'ultima persona al mondo che dovrei chiederglielo, ma non conosco nessun altro, tranne Arthur. Forse dovevo chiederlo a lui. Beh, ecco, se io ero... La voce di Martin si affievolì. Il suo piano studiato con cura si era arenato di fronte a quell'orribile dubbio. Avrebbe dovuto fare quella domanda ad Arthur. E forse aveva fatto la figura dello stupido. Lei non parlò subito. Era troppo presa nel tentativo di riconciliare quel traballante e rozzo discorso e la semplicità del pensiero con ciò che leggeva sulla faccia di Martin. Non aveva mai visto degli occhi esprimere una forza più grande. «Quest'uomo può fare qualsiasi cosa», era il messaggio che lei dileggeva, un messaggio che non si accordava affatto con la povertà con la quale quei pensieri erano stati espressi. Ruth aveva una mente così complessa e veloce che non era capace di riconoscere il giusto valore della semplicità. Eppure, colse una traccia del potere di quella mente proprio nel suo brancolare, le sembrò un gigante che si contorceva nel tentativo di strappare le corde che lo trattenevano. Beh, quando si rivolse a Martin, la sua faccia brillava di solidarietà. «Ciò di cui lei ha bisogno, l'ha compreso da solo. È l'istruzione. Deve riprendere le scuole primarie e finirle, e poi frequentare le secondarie, e infine l'università. Ma ci vogliono molti soldi», la interruppe lui. «Oh», esclamò lei, «non ci avevo pensato. Ma lei ha dei parenti, qualcuno che possa aiutarla?» Martin scosse la testa. «Mio padre e mia madre sono morti. Ho due sorelle. Una è sposata e credo che anche l'altra si sposerà presto. Poi ho parecchi fratelli. Io sono il più giovane, ma non hanno mai aiutato nessuno. Sono sparsi per tutto il mondo alla ricerca della grande occasione. Il più vecchio è morto in India. Due adesso stanno in Sudafrica. Un altro è in giro con un circo. Fa il trapezista e io immagino di essere come loro. Ho badato a me stesso da quando avevo 11 anni, quando mia madre era morta. Devo studiare per conto mio, immagino. Quello che adesso io voglio sapere è proprio da dove devo iniziare. Direi che la prima cosa da fare è procurarsi una grammatica. La sua grammatica è... Voleva dire orribile, ma lo emendò in non particolarmente buona. Lui arrossì e iniziò a sudare. «So che uso un sacco di gergo e di parole che lei non capisce, ma sono le uniche parole che io so pronunciare. Mi vengono in mente anche altre parole che ho preso dai libri, ma non so pronunciarle, e allora non le uso. Non si tratta tanto delle parole che usa, ma piuttosto di come le usa. Posso parlarle francamente, vero? Non vorrei offenderla.» «No, no, no!» gridò lui, benedicendola in cuor suo per la sua gentilezza. «Spari pure, Io devo sapere e preferisco saperlo da lei piuttosto che da chiunque altro.» «Bene, allora, a volte lei sbaglia i tempi. Dice era morta invece di morì. Lei usa nessuno nelle frasi negative.» «Come nessuno nelle frasi negative?» domandò e poi aggiunse umilmente. «Vede, non capisco nemmeno le sue spiegazioni.» «Temo di non essermi spiegata», sorrise. «Nessuno in una frase negativa, ecco, mi lasci pensare. Ecco, lei ha detto, non hanno mai aiutato nessuno. Ecco, non mai sono delle negazioni. Nessuno è un'altra negazione, bisognerebbe usare alcuno. Non hanno mai aiutato nessuno significa che, non avendo mai aiutato nessuna persona, devono aver aiutato qualcuno.» «È abbastanza chiaro», disse Martin. «Non ci ho mai pensato prima. Ma non significa che hanno per forza aiutato qualcuno, vero? Ecco, mi sembra che non hanno mai aiutato nessuno. Comunque, non dice se hanno o no aiutato qualcun altro. Ecco, non ci ho mai pensato. E non lo dirò più.» Ruth fu compiaciuta e sorpresa per la rapidità e la solidità della mente di Martin. Appena messo sulla strada giusta, non solo aveva capito, ma aveva anche corretto il suo errore. «Troverà questa regola nella grammatica. Ma c'è un'altra cosa che ho notato nel suo modo di parlare. Lei usa che quando non dovrebbe. Che sta al posto di un'altra parola. E sa qual è? Lui ci ripensò un momento e poi rispose, il quale? Lei annuì e disse, le usa che anche al posto di al quale e per il quale. Martin era sconcertato, non riusciva a capire. Mi faccio un esempio, le chiese. Bene, disse. E mentre pensava, lei aggrottò le sopracciglia e increspò le labbra e lui, guardandola, pensò che aveva un'espressione adorabile. Lei dice l'unica cosa che si parla. La cambi in l'unica cosa la quale si parla. Anche questo è perfettamente assurdo. Martin fece risuonare la frase nella sua testa e la valutò. Non le suona male all'orecchio? Gli suggerì lei. Non posso mica risponderle così, disse Martin coscienziosamente. Non so decidermi. Forse il mio orecchio non è mica così allenato come il suo. Non esiste la parola mica, disse lei con discreta enfasi, e Martin arrossì di nuovo. Inoltre, lei confonde imperfetto e passato remoto e si mangia le parole in un modo terribile. E cosa vuol dire? Si spinse in avanti Martin, sentendo che avrebbe dovuto cadere in ginocchio davanti a una mente così meravigliosa. Come mi mangio le parole? Non pronuncia le lettere finali. Con, ad esempio, si scrive C-O-N e lei lo pronuncia CO. Inoltre, non pronuncia distintamente le lettere iniziali e i dittonghi. Essi. Si scrive E-S-S-I e lei lo pronuncia... Ah, ma non è necessario elencarli tutti. Ciò di cui ha bisogno è una grammatica. Gliene darò una e le mostrerò come studiarla. E mentre lei si alzava, qualcosa che aveva letto in un galateo gli attraversò la testa all'improvviso e Martin si alzò goffamente, chiedendosi preoccupato se stesse facendo la cosa giusta, temendo che lei potesse pensare che fosse in procinto di andarsene. «A proposito, signor Eden», gli chiese Ruth mentre stava per uscire dalla stanza, «cosa significa Bumba? È una parola che ha ripetuto parecchie volte, sa?» «Ah, Bumba!» rise. «È gergo, vuole dire whisky e birra. Qualsiasi cosa che ti può ubriacare, ecco. È un'altra cosa». E lei rise questa volta. «Non usi tu come pronome impersonale. Tu si riferisce sempre ad una persona specifica. E usando tu, adesso, lei ha detto qualcosa di diverso da ciò che pensava». «Ah, non capisco», disse lui. «Dunque, lei mi ha appena detto whisky e birra, qualcosa che ti può ubriacare, che mi può ubriacare, capisce adesso?» «Ah, beh, la ubriacherebbero, non è vero?» «Naturalmente», lei sorrise, «ma sarebbe più gentile non coinvolgermi. Sostituisca il tu con la terza impersonale, qualsiasi cosa che possa ubriacare. E questo le suona meglio?» «Your personal pariah is in a war. The mirror flakes away and take a long nap. Watching the threads disintegrate like the Krishna beads in a lockbox safe. Watching the threads disintegrate like the Krishna beads in a lockbox safe. Watching the threads disintegrate, crumbling like the lawn art you made. Oh, lawn art you made. Crumbling like the lawn art that you made. Ruth, quando ritornò con la grammatica, avvicinò una sedia a quella di Martin, che nel frattempo si stava domandando se dovesse aiutarla, e gli si sedette di fianco. Mentre lei sfogliava le pagine del libro di grammatica, le loro teste si inclinarono l'una verso quella dell'altro. Per Martin era quasi impossibile seguire le spiegazioni sul lavoro da fare. Era incantato da quella deliziosa vicinanza. Ma quando Ruth iniziò a spiegargli l'importanza delle coniugazioni dei verbi, si dimenticò completamente di lei. Non aveva mai sentito parlare delle coniugazioni ed era affascinato dagli squarci che gli si aprivano sull'intima struttura del linguaggio. Si chinò ancora di più verso la pagina e allora i capelli di lei gli sfiorarono la guancia. Nella sua vita era svenuto una sola volta e pensò che ora sarebbe accaduto di nuovo. Riusciva a malapena a respirare, il cuore gli spingeva il sangue in gola, soffocandolo. Ruth non gli era mai sembrata così accessibile come ora, e per un momento si colmò l'ampio golfo che li separava. Ma la nobiltà dei suoi sentimenti per lei non ne fu in alcun modo diminuita. Ruth non si era abbassata verso di lui. Al contrario, le nuvole avevano sollevato Martin per portarlo all'altezza di lei. Il rispetto che provava per Ruth apparteneva alla stessa specie del timore religioso e del fervore. Gli sembrò di essere entrato indebitamente nel Sancta Sanctorum e spostò di lato, lentamente e con attenzione, la testa, allontanandola da quel contatto che lo aveva fatto fremere come una scossa elettrica, mentre lei, invece, non si era accorta di nulla. Passarono alcune settimane, durante le quali Martin Eden studiò la grammatica, riguardò i libri sul Galateo e lesse voracemente ogni libro che colpiva la sua fantasia. Non frequentò nessuno della sua classe sociale. Le ragazze del Lotus Club si domandavano che cosa gli fosse accaduto e infastidivano Jim con le loro domande. Al contrario, alcuni ragazzi che avevano indossato i guantoni da relay erano contenti che Martin non si facesse più vedere. Lui, intanto, aveva scoperto in biblioteca un libro che gli mostrava l'intima struttura della poesia, come la grammatica gli aveva mostrato l'intima struttura del linguaggio. Cominciò a riconoscere i metri, le costruzioni e le figure sotto la bellezza che amava, scoprendo così le cause e le ragioni di quella bellezza. Scovò un libro che affrontava la poesia come fosse un'arte figurativa, trattandola in modo esauriente, con numerosi esempi tratti dal meglio della letteratura. Non aveva mai letto nessun romanzo con l'entusiasmo e lo zelo con i quali ora studiava questi libri. La mente di Martin, che per 20 anni non si era faticata nello studio e ora era spinta da un desiderio maturo, si impossessava di ciò che leggeva con una forza raramente presente nella mente di uno studente. Quando guardava da questa postazione favorevole il vecchio mondo che aveva conosciuto, fatto di terra, di mare, di navi, di marinai, di artie, gli appariva davvero piccolo. Eppure quel mondo si mescolava con il suo nuovo mondo per poi espandersi, perché la sua mente ricercava l'unità, anche se Martin si stupì quando notò i primi punti di contatto tra questi due mondi. Ma la nobiltà di pensiero e di bellezza che aveva trovato nei libri lo aveva arricchito, spingendolo a credere ancora più fermamente che sopra di lui, nella società alla quale appartenevano Ruth e la sua famiglia, ogni uomo e ogni donna pensassero e vivessero pensieri simili. Giù, in basso, dove viveva lui, abitava la meschinità, e Martin voleva purificarsi da quella meschinità che aveva macchiato ogni giorno della sua vita. Voleva innalzarsi verso l'idealizzato regno dove abitavano le classi superiori. Per tutta la sua infanzia e la sua giovinezza era stato tormentato da una vaga inquietudine. Non aveva mai saputo che cosa voleva, eppure aveva sempre voluto qualche cosa, e di questo qualcosa era andato vanamente alla ricerca fino a quando aveva incontrato Ruth. Ora la sua inquietudine era diventata acuta, dolorosa, ma finalmente sapeva con chiarezza e con certezza che la bellezza, l'intelletto e l'amore erano le ricchezze che doveva assolutamente avere. Durante quelle settimane Martin vide Ruth una mezza dozzina di volte e ogni volta fu un nuovo motivo di ispirazione. Lei lo aiutava in inglese, correggeva la sua pronuncia e gli insegnava i primi elementi dell'aritmetica. Ma i loro incontri non erano interamente dedicati allo studio di nozioni elementari. Lui aveva visto troppo della vita e la sua mente era troppo matura per accontentarsi di frazioni, radici cubiche, analisi grammaticale e matematica. A volte la loro conversazione si spostava verso altri argomenti. L'ultima poesia che lui aveva letto, l'ultimo poeta che lei aveva studiato, e quando Ruth gli leggeva ad alta voce i passi che preferiva, Martin si sentiva trasportare in un paradiso di eccelso piacere. Mai nessuna delle donne che aveva ascoltato aveva parlato con una voce simile a quella di lei. Il solo suono di quella voce era un tonico per il suo amore, e ogni parola che lei pronunciava lo faceva sussultare e tremare. Era la qualità di quella voce, la serenità e la musicalità, il soffice, ricco, indefinibile prodotto della cultura e di un animo gentile. E Martin si sentiva ancora più felice perché la mente di Ruth comprendeva ciò che lei leggeva e rabbrividiva per la bellezza del pensiero scritto. Martin vide quegli occhi riempirsi di lacrime mentre gli leggeva ampi passi de La principessa, ogni volta che le parole colpivano con delicatezza il senso estetico della ragazza. In quei momenti le emozioni di Ruth sollevavano Martin così in alto da farlo diventare come un dio. Mentre la guardava e l'ascoltava, gli sembrava di guardare la faccia della vita e di leggerne i segreti più profondi. E infine Martin, conscio delle vette di raffinata sensibilità che aveva raggiunto, decise che quello era amore e che al mondo non vi era cosa più grande dell'amore. Attraverso i corridoi della sua memoria, come in rivista, passarono tutte le fiamme e i tremiti che aveva conosciuto fino ad allora. L'ubriachezza del vino, le carezze delle donne, gli scontri fisici con il rude gioco del dare e dell'incassare gli apparvero triviali e meschini, paragonati al sublime ardore che provava adesso. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.